Stavi lì seduta a contare le tue dita, a volte ti sbagliavi e ripetevi. E il tempo ti passava dentro e come una ferita si allargava e ti faceva male. Pensavi fosse amore, invece era così. Erano soltanto due parole. Stavi lì nell'ombra, riflessa di profilo, a provare le espressioni contro un vetro. E quando ti piacevi, pensavi, è così che dovrò bussare nei suoi occhi. Pensavi fosse un fiore che conoscevi già, invece aveva spine tutte intorno, che pungono e fa male. Pensavi fosse un fiore. Se amore c'è, dal cielo ne pioverà per te. Se amore è, sarà come perdersi e non tornare più. E se tu guardi solo, sono le cose più belle a far brillare le stelle. Se amore c'è, c'è, c'è. I fiori sono fragili, muoiono in un soffio, quasi come i giorni in una vita. Ma se li sai guardare, se li sai toccare, darai senso al loro breve vivere. Pensavi fosse amore, invece era così. Erano soltanto due parole, solo due parole, solo due parole. Se amore c'è, dal cielo ne pioverà, ne pioverà per te. Se come perdersi e non tornare più. E se tu